apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina cercherò di lambire un aspetto delicato e cruciale del rapporto genitori-figli. L'imbecillità è congenita o è una condizione dell'essere che si trasmette attraverso l'educazione? Sembrerà una domanda del tutto campata in aria, ma questo ha invece appassionato una ricerca molto profonda. Gli adolescenti non hanno nessuna intenzione di isolarsi, hanno bisogno di vivere in conformità del gruppo, hanno bisogno di avere qualche cosa che li standardizzi verso i loro coetanei, che li faccia accettare. Quando ero ragazzino io ero il motorino, dopo sono state le Clark, dopo il cellulare, dopo la PlayStation. Mia madre si è sacrificata sia per me che per mia sorella, quindi io non so voi, ma io dico viva la mamma. C'è una fase degli esseri umani in età feconda che è profondamente attraversata dal dilemma dell'educazione dei figli. I figli crescono come se in realtà non ci fosse nessuno stimolo dal mondo esterno, ma fosse soltanto ciò che i genitori trasmettono loro, capace di articolare la loro essenza. Esiste una maniera collettiva per avere tranquillità e serenità nell'educazione di figli: fare dei figli che non si pongano domande, fare dei figli che non conoscano la complessità, fare dei figli che abbiano in grande disprezzo ogni diversità rispetto al pensiero comune omologato. Secondo me i figli in parte sono il risultato dell'influenza dei genitori, ma per fortuna sono anche individui autonomi con il loro carattere e la loro autonomia nelle decisioni. Ad esempio, nei miei due figli, uno è aggressivo e bravo a scuola, l'altro è un buon tempone e un po' somarello. Tutto semplicemente dipende dall'insegnamento dei genitori. Io ho delle figlie e sto cercando di insegnargli le mie cose. E i genitori più coscienti si arrabattano, cercano manuali, cercano sussidi, scrivono ai giornali, seguono gli esperti in televisione, si consultano con altri genitori, fanno la più detestabile delle operazioni, chiedono consiglio ai propri genitori. Ma perché la formula, qualunque la maniera sia, maniera noi abbiamo di metterla in pratica, dà sempre lo stesso identico risultato? Perché abbiamo sempre l'impressione, in fondo, di alimentare la grande genia dell'imbecillità umana. Ciao Gianluca, io non ho figlioli, però mi è venuto in mente un racconto del mio vecchio sussidiario di quando ero alle elementari, in cui i ragazzi fasciavano tutto, erano dei veri bulli. Allora il sindaco e tutto il comune decide di costruire un palazzo di 7 piani, perfettamente arredato, da dargli in mano a questi ragazzi per distruggerlo. Entrano dentro, il primo piano lasciano intatte solamente le colonne portanti, poi pian pianino sempre meno forza c'hanno, sempre meno rabbia, per cui rompono solamente le cose più fragili, all'ultimo piano non rompono assolutamente più nulla, neanche i bicchieri di cristallo, e da quel giorno in quella città i ragazzi sono tutti calmi e tranquilli. Ecco, io credo un po' questo, i ragazzi devono fare gli adolescenti, è un periodo normale, insomma, tutti quanti ci siamo passati. Noi da piccini ci si divertiva a sputare in testa la gente che passava sotto la casa, a mettere gli stuzzi cadenti nei campanelli per farli suonare quelle poche volte si poteva uscire la sera un po' più tardi, e adesso gli dischetti sono altri. Ed anche questa idea, che appartiene molto alla nostra civilizzazione, al punto esatto in cui noi ci troviamo, anzi della nostra civilizzazione, che l'adolescenza sia un cambio radicale per cui una persona diventa un'altra persona. Noi avevamo davanti un batuffoletto con la vocina e improvvisamente diventa un essere umano con delle esigenze, con delle pulsioni. E se queste pulsioni sono di tipo distruttivo, bisogna assecondarle o bisogna fare in modo che anche i nostri figli diventino materia di cronaca quotidiana oggi. Leggo l'ennesimo episodio per cui i giornali si occupano di ragazzi. Il caso di bullismo criminale a Udine, una storia di ricatti fra ragazzine 14enni e una è costretta a rubare ai genitori per pagare il pizzo alle ricattatrici. Beh, soltanto negli episodi acuti di uscita radicale dalla regola ci si accorge dei figli, degli adolescenti, delle generazioni che stanno crescendo, ma quando questi prenderanno il nostro posto, il mondo cambierà rispetto a come lo vediamo e come l'abbiamo costruito noi. Diventare un calciatore ti interessa? Sì, alla fine è un sogno di tutti, però alla fine non ci conto tantissimo. Lui calciatore, lei velina, sembrano queste le professioni dei sogni per almeno il 15% degli adolescenti. Alla televisione passerò un'oretta e mezza al giorno, su internet un paio d'ore. Allora, il primo passo verso la sessualità si impara a scuola, poi ovvio ci si confronta con gli amici, però con i genitori personalmente non tantissimo. Il bullo è una figura positiva, più ammirato che temuto. Sì, fino a una certa età, in genere nel secondo ciclo delle elementari e fino alla scuola media. 800 24 0024 per dare un contributo. Non è necessario avere dei figli, ma oggi siamo contaminati comunque dalla figlitudine altrui, perché è un argomento di discussione, un argomento di preoccupazione, è un argomento di angoscia. C'è un riverbero costante e continuo del problema dei giovani, del problema dei ragazzi, ma c'è da qualche decennio a questa parte, come se improvvisamente ci trovassimo di fronte allo specchio di quello che noi abbiamo seminato. I figli sono l'esito dei loro genitori, o in maniera più allargata sono l'esito della società che li organizza, che li prepara e che li incasella. Questa mattina iniziano gli esami della scuola media. Ho accompagnato mia moglie, perché io naturalmente devo stare qua, mio figlio agli esami, e mi rendo conto di tutto l'apparato che c'è intorno, che già porta questi ragazzi a pensare che se mai loro uscissero dal seminato dei desideri comuni, delle letture comuni, della preparazione comune, dell'omologazione culturale generalizzata in cui sono affondati, saranno già dei disadattati, saranno già dei diversi. Quindi il consiglio che uno può dare a un figlio è: mi raccomando, non citare nulla che non sia stato già citato nei programmi scolastici, non dire nulla non ti abbia già detto la tua insegnante, non parlare delle tue letture, dei tuoi giochi, dei film che hai visto, dei tuoi desideri, di quello che senti in casa. Attento, attentissimo. Parla semplicissimo, di cose semplici, di cose che tutti gli altri potrebbero dire, così soltanto ti salverai. L'adolescenza, ci dicono, è il periodo in cui si raggiunge la maturità fisica, psichica e sessuale. Dai 13 ai 18 per la femmina e per il maschio dai 13 agli 80-82. Ecco, gli adolescenti sono, come spiegare, sono come i tipo figli, però sono più grossi proprio. E questo cambiamento, pem, te lo fanno nel giro di un weekend. Cioè tu passi da un fagottino angelico che ti dice ma tu sarai sempre la mia mamma, ad un brufoloso energumeno che ti dice cioè ma tu sarai sempre la mia mamma. A casa mia l'adolescenza è iniziata quando il chicca e la chicca hanno cominciato a dire delle frasi di questo tipo: mamma, vado a prendere il gelato, mi dai 80 euro? Questa era Angela Finocchiaro, a Zeligma, oggetto di irrisione, di satira alla società. In realtà diventa la più chiara e lineare denuncia di uno statu quo, di ciò che accade, ciò che noi tutti condividiamo. Ma in questa generalizzata accettazione di uno stato di perenne trasmissione dell'imbecillità umana, esiste qualcuno che si sta muovendo in direzione opposta. L'ho scoperto il professor Piero Paolicchi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Lei è professore di psicologia sociale all'Università di Pisa, quindi è un profondo titolato e riconosciuto cattedratico. Però vorrei questa mattina, se possibile, e lo dirò soltanto in questa fase, giocare con lei. Vorrei che ciò che lei ha scritto sotto forma romanzesca, che in realtà è un saggio lucidissimo sulla contemporaneità, simulassimo che fosse vero. Vorrei che la variabile G, perché ci vogliono tanti genitori per non fare un imbecille edito da Rizzoli, non sia un romanzo, ma sia in realtà una sua coraggiosa cronaca su quello che sta accadendo. Sì, d'accordissimo, anche perché se dovessi dare io una definizione di quel libro lo definirei un game book. cioè un oggetto con cui giocare, appunto. Allora facciamo finta, professore, che lei ha dovuto far finta, fingere di scrivere un romanzo per non essere eliminato fisicamente dalle forze occulte che vogliono la trasmissione genetica dell'imbecillità. Sì, e soprattutto attribuire la responsabilità di tutto quanto scritto a un gruppo di genitori, anzi sia al sottoscritto, che eventualmente verranno ricercati e perseguitati al posto mio, visto che sono loro, questo gruppo ancora sconosciuto, ad aver proposto le idee dei documenti che sono rintracciati e delle registrazioni. Che però partiamo da un punto. Dunque, lei ha trovato un documento che lei non doveva trovare, un documento segreto. Cosa si dice in questo documento? Chi l'avrebbe messo? Dunque, un gruppo di genitori, la sigla è Mogeri, che ha deciso di passare all'azione, ha deciso che ormai, diciamo, le forze che contrastano lo sviluppo di una adeguata intelligenza, intesa non come ciò che viene misurato dai test, ma come capacità di pensiero critico, queste forze vanno combattute scendendo in campo, attivando adeguandosi al suggerimento che qualche tempo fa dette addirittura un giudice: resistere. Quindi ci sono dei genitori che sono scesi in clandestinità per educare i loro figli? Sì, per prendere degli accordi, stabilire dei programmi e passare all'azione, appunto, con azioni di tipo guerriglia, perché una guerra totale non sono ancora in grado di svolgerla per le forze in campo. Un attimo, abbiamo una telefonata. Leo, buongiorno. Allora, buongiorno. Sulla questione dei figli, no? Dei Lei ragazzi. Ha sentito parlare di questa associazione segreta genitori Mogeri? Ma guardi, io non ho sentito parlare. Volevo dare solo un consiglio, se mi consentite. Sì, certo, sono qui. È il fatto che i giovani è un po' come vivere, non so, prendiamo l'esempio di un'autostrada, no? E pensi un po', se in un'autostrada, in una città, non ci fossero indicazioni, cosa succederebbe? Beh, c'è già qualcuno che prende le autostrade contro mano nonostante i segnali, sarebbe... No, nel senso, se mi fa spiegare glielo posso anche spiegare. Sì. Allora, prende l'autostrada e non ci sono indicazioni, no? E la prima si troverebbe alla prima curva contro qualche cosa. Allora, i ragazzi hanno bisogno di indicazioni, poi è chiaro che bisogna avvisarli se ci sono delle conseguenze. Guarda che se tu fai questa azione poi subirai delle discipline. E è chiaro che poi quando il ragazzo commette quell'azione va disciplinato, naturalmente nel modo giusto. Quelli che, come dice, qual è lei, il modo giusto, Leo? Ma dirgli: guarda che se tu fai del male a qualcuno, allora il modo giusto è fargli capire, innanzitutto fargli prendere le sue responsabilità a questo ragazzo e fargli capire che comunque quell'azione che lui ha commesso, picchiare un compagno di classe, deve essere ripreso, e se danneggia qualcosa andarlo a prendere e fargli fare il lavoro, non farlo pagare, non so, alle istituzioni, alla scuola. Saranno i genitori che con il ragazzo dovrà mettere a posto, ad esempio, le spiego, danneggiano una palazzina, no? Fanno i murales e poi c'è il condominio che paga. Allora, prendere il ragazzo, se si riesce a beccare, e con il lavoro ritintezzare la palazzina. Questo cosa vuol dire? Che il ragazzo ci penserà due volte, tre volte prima di andare a imbrattare i muri. Questo è chiaro, questa sua ultima lucida dichiarazione, Leo, la ascrive, anche se lei lo nega, tra le file del Mogeri. È d'accordo, professor Paolicchi? Chiede addirittura sì, una presa di responsabilità? Già un attivista per questo si può aspettare una richiesta di iscrizione. Non invece per l'altro aspetto, quello relativo alla mancanza di indicazioni per ragazzi, giovani e adolescenti. Spostando un po' l'attenzione sui genitori ai quali diciamo sono rivolti questi messaggi, possiamo dire che oggi la situazione è esattamente opposta. Se, come ricordavo nel caso del povero Adamo che dovette costruirsi da solo tutte le competenze per allevare i figli di cui non sapeva niente, oggi la situazione dei genitori è esattamente opposta. I genitori sono assolutamente sovrastati, sono continuamente bombardati da una quantità di indicazioni che però sono in direzioni che almeno questo gruppo di genitori ritiene fuorvianti. Però professor Paolicchi, io vorrei riportare un attimo il tema nei binari che ci eravamo dati. L'ascoltatore denuncia una tendenza generalizzata. È sin troppo facile circoscrivere e sottolineare gli aspetti trasgressivi della gioventù, dell'adolescenza nelle sue fasi criminose. Perché non parliamo del vero crimine di cui questa mattina vogliamo discutere, quello del conformismo? Il vero delitto è allevare figli conformisti, non tanto allevare figli che dipingono sui muri, o non soltanto quello. Certo, come dicevo, l'aspetto della responsabilità di cui farsi carico, anziché, come spesso fanno non solo i figli ma anche i genitori, ricorrere allo scaricabarile per cui le colpe sono sempre di altri, quello è un discorso che va da sé, mentre la tendenza, la spinta verso l'omologazione, verso l'accettazione di un pensiero unico, è proprio quello che preoccupa questi genitori, i quali appunto vedono non tanto i rischi di avere in casa un caso clinico o un potenziale un piccolo criminale, diciamo, come la maggior parte della letteratura fa pensare, tant'è che poi i suggerimenti che si danno sono raccolti in manuali sempre che porrebbero i genitori nella condizione di clinici o di agenti dell'ordine professionali. Il vero pericolo è proprio la moltiplicazione di persone, adolescenti e adulti, che accettano passivamente, che sono capaci di pensare solo con la testa degli altri, che sono capaci di pensare appunto soltanto i pensieri che ricevono in forma passiva e passivizzante dalla televisione e da altri strumenti meno incisivi di questo, formazione, di educazione attuale. Questa però è la formula che tutti i genitori sanno, che permette di vivere quietamente. Guai in un ambiente di lavoro mostrare iniziativa, guai in un ambiente amicale mostrare particolarità e curiosità non condivise dagli altri, va a avere comportamenti che gli altri non hanno. Questo profondamente è il bisogno di rimanere imbecilli come tutti gli altri, cercare di salvaguardare i figli probabilmente dai rischi che si hanno in comportamenti eterodossi rispetto alla regola. Questo dipende soprattutto dal fatto che nel contesto attuale sociale e culturale la differenza viene sempre misurata verticalmente, viene sempre misurata in termini di maggiore potere, maggiore possibilità di successo, viene quantificata, se non in denaro, in visibilità e quindi naturalmente in indice di gradimento rispetto al proprio ambiente. Una concorrenza spietata anziché una accettazione di una variabilità che arricchisce anziché mettere a confronto e in conflitto. Sentiamo due ascoltatori negli ultimi due minuti che ci separano dalla pausa. Giuseppe, buongiorno. Salve, buongiorno. Io volevo dire appunto quello che un pochino avete accennato voi. Il discorso è che i genitori oggigiorno, perché siamo omologati noi, io ho due figli, una di 6 e una di 13, sto affrontando l'adolescenza ora, praticamente i genitori credono, io non sono così, per fortuna credo di impormi un pochino di più con mia figlia più grande, cerco di dargli delle regole, anche andando controcorrente vedo i miei amici che sono molto più elastici, io invece sono un pochino più rigido, non come era mio padre perché avrebbe 80 anni ora, però cerco di dargli delle regole, delle indicazioni, possono essere anche sbagliate, però in quel momento lì cerco di far ragionare mia figlia, cioè poi che io faccia bene o faccia male credo che tutti i genitori possano sbagliare, però in quel momento lì voglio o vorrei che mia figlia ragionasse con il suo cervello, mettendo davanti le sue responsabilità. A costo di immaginare un futuro a volte anche difficile per un figlio che ragiona con il proprio cervello. Sì, ma per sfortuna o per fortuna, a differenza di come ha detto lei, di anzi, che siamo tutti omologati, roba varia. Per sfortuna direi che la società ci sta omologando, però la bellezza di essere uomini è quello di ragionare col proprio cervello, anche andando controcorrente. Cioè, è questa la bellezza di essere uomini, di essere adulti. Ho fatto un sacco di interviste e di trasmissione a proposito dell'essere grande e delle proprie responsabilità, e poi la responsabilità più grande è quella di mettere anche di confrontarsi con i propri figli, penso, e in quel momento lì io mi metto a confronto, perché ovvio che non sarà mai d'accordo come io non ero d'accordo con mio padre e mia madre. Allora, questa è una dinamica, necessaria, a volte anche auspicabile. Il non essere d'accordo con i genitori non significa poi acquisire i modi di comportamento felpati che ogni genitore inconsapevolmente trasmette al figlio, come dicevo io questa mattina, non fare nulla che non possano fare gli altri, almeno ti salvi all'esame di terza media. Melog 2.0. Avrete notato che ognuno di voi si muove con la sua particolare andatura. Per esempio, Piz se la prende comoda, tanto prima o poi arriverà. Invece Cameron sta pensando, andrà bene, forse sì, ma sì, certo. O forse no, chi lo sa? Ma non li ho fatti marciare per deriderli. Li ho fatti marciare per illustrare la questione del conformismo. La difficoltà di mantenere le proprie convinzioni di fronte agli altri. Alcuni di voi hanno l'aria di pensare, ah, io avrei marciato diversamente. Allora chiedetevi perché battevate le mani. Ci teniamo tutti ad essere accettati, ma dovete credere che i vostri pensieri siano unici e vostri, anche se ad altri sembrano strani e impopolari, anche se il gregge può dire non è bene. Come ha detto Frost, due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso. Voglio che troviate la vostra camminata adesso, il vostro modo di correre e passeggiare in ogni direzione, comunque vogliate, che sia fiero o che sia sciocco, sta a voi. Giovanotti, il cortile è vostro. Già, trovare una maniera di camminare che sia la nostra, che corrisponda all'armonia della nostra struttura fisica, del nostro modo di pensare, del nostro punto di vista nei confronti del mondo, senza pure di essere giudicati, senza timore di essere segnalati se si cammina in maniera diversa rispetto agli altri. Questi erano gli insegnamenti del professor John Keating, Robin Williams nell'Attimo Fuggente, un esempio ormai da manuale di insegnanti che tutti vorrebbero avere, ma tutti sanno quanto sarebbe difficile, penoso e faticoso per un figlio poi mettere in pratica con i suoi amici, con i suoi futuri colleghi di lavoro, gli insegnamenti di originalità e di orgoglio della propria diversità del professor Keating. Perché sono salito quassù? Chi indovina? Per sentirsi alto. No! Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio? È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice, molti uomini hanno vita di quieta disperazione, non vi rassegnate a questo. Ribellatevi, non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno. Ecco così, bravo Prisky, grazie, sì. Osate cambiare, cercate nuove strade. Professor Piero Paolicchi, quanto i genitori organizzati del Mogeri, che lei ha scoperto grazie a un documento segreto, di cui adesso ci racconterà qualcosa, spero, dei rituali e delle maniere di agire sulla società senza rischiare come lei poi fortemente per la loro persona. Nella variabile G, perché ci vogliono tanti genitori per non fare un imbecille, Rizzoli, lei ha avuto il coraggio di esprimere sotto forma romanzesca, per non subire drastiche ripercussioni sulla propria persona fisica, quello che in realtà tutti vorremmo sapere. È abbastanza semplice dirlo, perché in gran parte le notizie che si ricavano sulle attività e dai documenti di questo gruppo fanno parte in larghissima misura di un patrimonio che risale anche molto lontano nel tempo e che viene ingiustamente e inopportunamente sostituito con le ultime novità che la scienza moderna sta costruendo. Per esempio, io prima ho citato l'adolescenza, che sembra un fenomeno che abbia sempre abbracciato tutto il genere umano dalle origini ai tempi nostri a tutte le latitudini, è così? E vede, anche questo basta leggere qualche saggio serio sull'adolescenza e si vede che comunque è una fase di vita che presenta profonde differenze da un periodo storico all'altro, da una società all'altra. Anche avendo lavorato con altri colleghi su questo tema specifico, una delle cose che decidemmo fu quella di cessare di usare il termine adolescenza e usare il termine adolescenze, anche per i ragazzi e le ragazze che si trovano in questa fase di vita nella stessa nostra società, perché tra il ragazzo di classe sociale medio-alta che frequenta una scuola a Milano e la ragazza coetanea che va a raccogliere le olive appena terminata la terza media, non possiamo stabilire delle leggi che riguardano il loro sviluppo psicologico omogenee, in quanto vivono esperienze profondamente diverse. Quindi non c'è un primato del cosiddetto scatenamento ormonale che poi passa sopra a tutti gli status sociali, alle latitudini in cui uno si produce, al tessuto sociale, all'organizzazione della famiglia, via dicendo. Teorie dei nostri colleghi scienziati hard, scienziati duri, ma sono stati tra l'altro abbandonati. Oggi in effetti la verità e le cause vengono ricercate nei geni a livello più profondo, e anche qui insomma assolutamente credo che sarebbe soltanto fanatismo, perché nessuno si azzarda a dirlo, che il destino nella vita delle persone sia in misura, non dico determinato, ma in misura prevalente influenzato dal suo equilibrio ormonale o dai suoi geni. Professor Paolicchi, la interrompo solo un istante perché ho una notizia interessante per la sua ricerca. C'è un insegnante, Andreina, che mi sembra che ci segnali presenze di membri del Mogeri anche nel corpo degli insegnanti. Andreina, buongiorno. Buongiorno. Mi iscriverò volentieri alla società segreta. Sono rimasta un po' interdetta quando lei ha detto che per superare l'esame di terza media così bisogna essere omologati, non bisogna... Guardi, lo dico, spero di non essere sentito da chi di dovere. Una volta andai a parlare con un insegnante lettere di mio figlio, che mi diceva che mio figlio non legge. Mio figlio passa gran parte della sua giornata a leggere, e in questo momento stava leggendo, adesso non per farmi, sta leggendo Shakespeare con testo a fronte, ma aveva appena finito Calvino, di cui era appassionato, e appassionato di fantasy. Lei dice: ma quelli non sono i libri del programma. E allora ho capito che non avevo argomenti. Vabbè, allora insomma, le posso garantire che tra gli insegnanti di lettere ci sono anche molte persone che la pensano diversamente. Io cerco di far leggere tutto quello che vogliono, quello che preferiscono, purché leggano. E poi soprattutto il testo da leggere era Fontamara, però non voglio insistere. Vabbè, ma insomma Fontamara, ecco, io non obbligo mai nessuno a leggere qualcosa di predeterminato, anche se magari è un bellissimo libro, ma insomma assolutamente ogni mese devono leggere un libro, ma con una totale libertà di scelta, ovviamente non piccoli brividi. No, ma infatti glielo impongo adesso, quando esagera con la PlayStation si deve leggere un capitolo di Fontamara. Va bene. sospesa mi sembra la giusta punizione. No, comunque nella scuola media ci sono anche tanti insegnanti. Io sto andando in pensione, ho le nuove leve, i nuovi colleghi che stanno arrivando nella mia scuola sono uno più bravo dell'altro e devo dire che si cerca tutti insieme proprio di far ragionare i ragazzi con la loro testa, dare a loro un senso critico, e perché vediamo che invece quello che è l'omologazione è al ribasso, cioè veramente il mito sui calciatori e le veline. Io ho avuto problemi soprattutto con le alunne femmine che veramente hanno solo il modello velina e il modello sopraffazione del più debole. Per cui abbiamo lottato per 3 anni nella mia sezione per cercare almeno di salvare quelle ragazze più autonome che però per non essere discriminate cercavano di omologarsi al gruppo delle veline. E qualcosa siamo riusciti a ottenere, non del tutto, ma insomma è una battaglia che continua anche le nuove insegnanti, direi che lavorano. Quindi lei ci conferma, la ringrazio Andrina, che in realtà il Mogeri è anche molto attivo nel corpo insegnanti. Sentiamo Ioannis, buongiorno. Buongiorno, grazie. Lo dica subito, è del Mogeri lei? No. Io sono greco, trapiantato a Verona 15 anni fa. Volevo raccontare il fatto di un mio amico con il suo figlio adolescente che è finita la terza media, voleva andare a lavorare, non voleva continuare a scuola, voleva essere dipendente, guadagnare i suoi soldi, eccetera. Allora il suo papà gli ha detto va bene, vieni con me domani mattina alle 7 ti porto a lavorare. Che lavoro faceva il padre? Il padre aveva un negozio di un pet shop, ma non lo portava nel suo negozio. E l'ha preso tanti otoli di carte, un spruzzino per lavavetri, e alle 7:10 ha piantato il suo figlio in un semaforo centrale dicendogli che te, allora, visto che non è che sai un mestiere, non è che hai finito una scuola, hai un diploma, eccetera, cominciamo di qua, stai qua tutto il giorno, lavi i vetri, qualcuno ti darà un soldino. Qualcuno ti darà anche una bella bastonata, perché c'è un racket terrificante dei lavavetri, guai a invadere il territorio già spartito minuziosamente. Comunque il figlio era rimasto a bocca aperta all'argine della strada, il padre è andato via, ovviamente ha fatto il giro e poi si è diciamo nascosto da qualche parte a vedere che succede. Morale della favola, il figlio ha finito il diploma di ragioneria a 100 e lode. E va per scontato che dopo a 18 anni, quando ha chiesto dal papà il motorino, il suo padre alle 2 di notte di sabato sera l'ha portato a pronto soccorso per vedere cosa stava scaricando tutte queste ambulanze che venivano lì. Sembrerà duro, sembrerà drastico, ma questo è il sistema educativo del Mogeri. Ora Ioannis non lo ammette, ma sicuramente il suo amico mette in pratica ciò che il nostro professor Paolicchi ha messo e ha scritto nel suo coraggiosissimo romanzo. Melog 2.0. Dai, vabbè, parla, va, racconta, ma che sei, te la sette, la tribù, i carbonari, i massoni, ma che sei? Mai massoni, Mario. Cioè, allora, mentre le ragazze, no, provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, no? Tipo carciofi, ravanelli, insalata, piselli, no? Tutta roba vegetariana, un sacco buona, no? Noi ragazzi invece provvediamo così alla dimensione artigianale, no? Però diciamo che il vero e proprio rapporto totale, no? Cioè di gruppo, no? Cioè avviene la sera, no? Cioè quando parliamo dei nostri problemi, no? Ci confrontiamo, preghiamo, ascoltiamo della musica, no? Eccetera, no? L'altra sera, no? Per esempio, ci è venuto spontaneo, cioè spogliarci completamente nudi, no? Ed andarci a buttare nella piscina, no? Lo sento. Lo sente, ma lei non dice niente. Tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori. Ma padre, ma va via così, senza la casa, senza la famiglia, con le pezze al culo, ai semafori a chiedere la deposita. E a te? Hai giurato che tu facevi il sano. Grosso, forte. Ho sbagliato tutto. La disperazione di un padre prima di conoscere le colonne segrete del Mogeri di fronte a un figlio che nella sua diversità in realtà ripeteva l'omologazione dell'anticonformismo. È un Verdone dannata che però ci ricorda molto del nostro passato e era uno specchio profetico anche della nostra contemporaneità. Ma abbiamo al telefono qualcosa di veramente sconvolgente. Penso che sia il presidente della colonna africana del Mogeri, Sergio, buongiorno. Lo confessi. Non sono il presidente della colonna africana, no, sono un africano qualunque che qui in Italia che ha la cultura anche italiana, però che magari è cresciuto con la cultura africana, ovviamente. Ecco, mi descriva esattamente l'impressione di un africano che viene in Italia, vive in Italia, si adegua ai costumi, agli usi e vede noi con il problema dei figli adolescenti troppo imbecilli per essere veri. No, io non, magari imbecille non direi. Detto in maniera bonaria, non vuole essere offensivo. Incapaci di articolare un giudizio critico sulla realtà. Però spenga la radio per gentilezza, Sergio. No, veramente non c'è la radio accesa. Ah, sentivo un riverbero, vabbè. Sono persone che stanno parlando dall'altra parte. No, dicevo questo, no? Io non darei tanto la colpa ai figli, no? Perché io dico sempre che se si prende uno spugna, si mette la spugna nell'acqua, non si può aspettare che ci sia il vino. La spugna assorbe l'acqua. Se si mette la spugna nel vino, ovviamente la spugna assorbe il vino. Non lo so se riesce a capirmi. Sì, sì, no, lei sta esprimendo però attraverso in maniera colorita quella che è la filosofia del Mogeri, che i figli sono l'esito dei genitori, quindi sono i genitori. Allora ci siamo capiti, la vera colpa lo do piuttosto ai genitori, che i genitori devono fare i genitori. Invece ora, più che fare i genitori, fanno più o meno quelle che vedono nei film, vogliono essere troppo amici dei figli. Ci mancherebbe altro, nell'amicizia con i figli ci deve essere quella complicità lì. Però questo non esclude che un genitore che faccia il genitore e che il figlio faccia il figlio, in modo tale che il figlio riconosca la figura del genitore e quello che dice il genitore, che abbia un peso. Perché ora si vede anche il figlio che brontola anche il genitore. Che è una cosa, secondo lei, non concepibile, perlomeno? No, da noi in Africa è inconcepibile, veramente non si può concepire una cosa del genere. Ma già solo il fratello minore deve rispettare il fratello maggiore, già questo fatto lì. E figuriamoci un figlio che deve brontolare un genitore, ma non esiste. Sì, però questo... Ma è anche inconcepibile. Scusi, Sergio, è giusto dal punto di vista della tenuta comunque del rigore familiare. Però mi sembrerebbe di pensare questo ferma ogni dinamica, rimane la società immobilizzata in quello che è l'atteggiamento dei genitori. Anche in questo caso forse c'è un temibile conformismo in questo. No, non è quello. Il discorso è questo, che il figlio a un certo momento il figlio crescendo ottiene una certa autonomia. Ok? Non è che il figlio crescendo comincia sempre a fare quello che dice il genitore, no. Quindi nella fase di formazione non si discute su quello che sia il rapporto rigoroso fra il genitore che deve dare degli insegnamenti e il figlio che deve seguire, adeguarsi, poi farà con la testa sua. Luca, buongiorno. Buongiorno. Sul conformismo. Sì, io volevo appunto portare una piccola considerazione, e cioè il fatto che è difficile mantenere un'originalità nell'educazione dei propri figli, proprio perché i figli prima di tutto, ma anche i genitori, sono bombardati continuamente da messaggi che invece tendono ad omologare il comportamento dei nostri bambini. Lei dice dalla scelta dei giocattoli si capisce che il figlio verrà su tale quale come lo vuole il mercato. Ma sì, certo, perché la scelta dei videogiochi per i bambini, ci stanno i giochi di strategia, di battaglia, di guerra, per le bambine si insegna a cucinare le uova, si insegna a posare i cagnolini e cose di questo genere. E così vale anche per l'età più giovani, perché obiettivamente ogni volta che si entra in un supermercato o in un qualsiasi negozio si ritrovano esattamente gli stessi stimoli che sono stati dati mezz'ora prima o il giorno prima dai cartoni animati, e si vede. È chiaro, chiaro, la devo interrompere perché stiamo per chiudere la trasmissione. Volevo soltanto una battuta del professor Piero Paolicchi, colui che ha avuto il coraggio di portare alla luce il Mogeri, di cui abbiamo avuto illuminanti esempi. Professore, ritrova in alcuni dei nostri ascoltatori le strategie e i disegni occulti del movimento segreto dei genitori che lei ha così coraggiosamente rivelato? Sì, anche con tutte le variazioni e tutti i possibili eccessi in un senso o nell'altro, tant'è che una massima fondamentale che il movimento propone è che la virtù sta nel mezzo, o come uno dei toscani membri dice, il troppo stroppia, comunque in qualsiasi direzione. Vorrei soltanto non trascurare un elemento che è afferrato anche nelle nostre conversazioni: il rischio di parlare di chiunque si tratti in termini di stereotipi collettivi, di caste praticamente. Quando parliamo di genitori, quando parliamo di insegnanti, enorme errore. Io sono perfettamente d'accordo con lei, avendo fatto esperienza anche nella scuola, che ci sono persone estremamente brave, estremamente preparate, insieme naturalmente con altri che non sono affatto tali. Così come quindi mi sembra logico che, non volendo generalizzare nell'educazione e negli insegnamenti sanno ai figli, non si generalizza nemmeno nell'individuare coloro che sono i responsabili dell'imbarbarimento generazionale. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Email melog@radio24.it.